Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di sentimenti e di biciclette, uno strano connubio che sono alla base del libro di Antonio Pascale, Le attenuanti sentimentali, pubblicato da Einaudi, 236 pagine, 19,50 €. Questo non è un romanzo, scrive subito l'autore, ma un giro in bicicletta. Sottotitolo spiega riflessioni filosofiche quotidiane. L'autore quindi presenta in questo modo questo libro e in effetti vuole sì scrivere un romanzo, ma sostanzialmente non gli viene la trama, finché un'amica francese non gli consiglia di scrivere un autofiction, o come dicono i francesi, un autofiction, partendo dai fatti minimi e quotidiani della vita ai quali dare intensità, come gli dice la francese. Pascale vorrebbe anche scrivere un documentario sui sentimenti, magari tenendo sott'occhio l'evoluzione dei due figli, una femmina sboccata e un maschio fanatico della Roma. E allora nasce una serie di apparenti divagazioni che si distillano nelle ultime pagine in una manifestazione di fiducia nei confronti della vita, del progresso, una fiducia corretta dall'inquietudine che, conclude Pascale, è la molla per far andare avanti l'uomo in un percorso segnato da molti errori per i quali si possono appunto invocare delle attenuanti sentimentali. Ma sentiamo l'autore. Buonasera ad Antonio Pascale. Buonasera a tutti voi. Antonio Pascale, questo suo libro è una sorta di percorso nel disordine della vita, simboleggiato dalla difficoltà di andare in bicicletta in città. Ecco, che cosa ha scoperto durante questo viaggio fatto di memorie, di ricordi, di incontri di lavoro, di viaggi e di cene bislacche, come le chiama lei? Ma guardi, questo libro, se riesco a riassumerlo veramente in due battute, non parla d'amore, non è una storia d'amore, però parla di amori, perché sono convinto che oggi questo sentimento può essere descritto meglio se declinato al plurale. Quindi quello che ho scoperto è una sorta di stabilità sentimentale. Gli amori moderni sono quasi tutti instabili, perché i vecchi ruoli tradizionali a cui facevamo riferimento, questi ruoli stanno fortunatamente cambiando. Abbiamo un sacco di benefici, però anche dei costi, e cioè il codice che regolava le dinamiche tra le coppie, tra le persone, questo codice non è più valido, dobbiamo trovarne un altro. E intanto c'è un'instabilità che a volte diventa molto comica e quindi divertente da raccontare. E infatti lei alla fine del libro definisce l'amore come una sorta di invenzione culturale. Beh, così come lo conosciamo noi, di sicuro è un'invenzione, cioè l'amore che insomma ha conosciuto mia nonna, mio nonno, i miei bisnonni, beh, quell'amore lì non era un amore vero, su via, non dobbiamo prenderci in giro su questa roba, era un amore di costrizione, le famiglie erano fatte sposarsi ragazzi giovani, erano stati insieme, mia nonna si occupava di casa tutto il tempo, mia nonna cercava di lavorare in campagna, ma insomma così come lo intendiamo noi l'amore, cioè possibilità di scelta, autonomia, consapevolezza dei propri sentimenti, rapporto con i figli, sincerità, eccetera, beh, questo amore è moderno quindi è giovane e non lo conosciamo ancora bene. Ecco, a un certo punto, parlando di altri sentimenti, lei sottolinea che esiste una certa tendenza al gregariato, siamo una specie molto influenzabile, siamo gregari, preferiamo stare con quelli che la pensano come noi. Questo sentimento si sta diffondendo? Siamo sapiens, è così, insomma, c'è tutto un pensiero filosofico sull'argomento, ma insomma studi di psicologia cognitiva l'hanno chiarito definitivamente, nessuno di noi vuole stare con persone che non la pensano come noi. I conservatori stanno col conservatore, i progressisti con i progressisti. Nella società moderna sempre di più tendiamo ad incensare quelli del nostro club e a contestare quelli del club opposto. Questo a volte crea dei seri problemi di comunicazione. La comunicazione è fondamentale per il buon andamento della democrazia. Quindi è chiaro che dovremmo cercare anche il modo di comunicare e prendere sul serio istanze diverse dalle nostre. Ecco, lei l'occasione per questa riflessione le viene data dalla sua posizione contro l'estremismo ecologista, che ritorna spesso in questo suo libro, l'estremismo che si manifesta nei comitati contro gli inceneritori, nei genitori che vogliono il cibo biologico, negli avversari dell'OGM. Insomma, lei apprende una posizione che l'hanno fatta definire, come scrive lei stessa, il maledetto di una certa letteratura chic non allineata. Insomma, è una cosa comica. No, ma in realtà io sono un ecologista razionale, cioè se mi dovessi definire, più che dire sono di destra o di sinistra, direi io sono un ecologista razionale, cioè sono molto attento al costo delle mie singole azioni sulla comunità. Detto questo, credo che ci sia un culto dell'ambiente che presuppone l'idea della purezza e che causa dei gravi danni, perché non ci fa muovere affatto. Ci impedisce di guardare lontano, di usare strumenti nuovi per migliorare e per gestire meglio i costi. Quindi spesso alcuni movimenti credono che basta una parola tipo biologico per risolvere i problemi in campo legati alle crittogame, ai parassiti, alle malerbe, eccetera, eccetera. Purtroppo il campo è un organismo vivente e noi riusciamo oggi a parlare di cibo. Quante volte parliamo di cibo durante il giorno? Quanti programmi televisivi vediamo sul cibo? Quanti libri sono in classifica? Mannaggia la miseria! Quanti libri sono in classifica del cibo? Tantissimi. Perché parliamo di cibo oggi? Perché ce l'abbiamo il cibo. Non è scontato, questo non è scontato. Solo 80 anni fa non ce l'avevamo il cibo, ce l'abbiamo perché fortunatamente meccanizzazione agricola, la chimica e appunto il miglioramento genetico hanno aiutato gli agricoltori ad avere buon cibo. Adesso si tratta di gestire i costi di queste innovazioni e bisogna andare avanti, non si può tornare indietro. E a volte noto che alcuni appunto programmi strategici dei cultori dell'ambiente ci bloccano, non ci fanno andare avanti, non ci fanno pensare, non ci fanno innovare. E questa certa idea dell'ambiente lei la definisce una prova di vecchiaia? Ma guardi, sì, perché poi detto in breve, noi fa qualche anno l'età media degli italiani sarà di 48 anni. A 48 anni purtroppo, essendo componenti della specie sapiens, siamo soggetti alla nostalgia, ci piace l'imbiancio dei bei tempi, ci rendiamo conto che la parte della vita che ci aspetta non potrà essere dedicata all'innovazione, alla ricerca, all'inquietudine, alla curiosità. Chiudiamo in barca e stiamo lì nel salotto di casa e ci teniamo quello che abbiamo. A volte sembra, quando da piccolo dicevo a mia nonna, nonna, abbiamo cambiato il televisore, e mia nonna diceva no, lascia stare, si vede così bene, ma come, guarda, lo schermo non è buono, no, lascia stare, è buono, va bene così, e non facciamo mai niente, non cambiamo mai niente, siamo immobili. Forse il problema dell'Italia è che anche un paese che sta invecchiando, rispetto all'India, l'India ha già una quantità di persone che avranno un'età media di 22 anni, ma noi cosa possiamo farci? Possiamo mai competere con dei 22 anni attivi, svegli, tra l'altro brillanti matematici? No, che vogliono capire come funziona il mondo, hanno ambizioni, desideri. Tra poco saremo 5 miliardi gli appartenenti alla classe media, e beh, insomma, consumi diversi, ambizioni, desideri. Io ho l'impressione che da questa parte del mondo, un paese che comunque è benestante, che è un po' furbo per alcuni aspetti, ecco, non si preoccupa più dell'altra parte del mondo e con la quale poi dobbiamo parlare, dobbiamo un po' contaminarci. Altrimenti rimaniamo sul divano a guardare il vecchio televisore. E questo invecchiamento colpisce anche i giovani. C'è una pagina nella quale una sua amica trentenne single descrive la solitudine delle sue coetanee, che sono poi costrette a trovare rifugio nei medicinali per trovare un po' di sollievo. Sì, questo è un aspetto di un particolare gruppo di donne trentenni, intorno ai 30 anni, che hanno delle grandi qualità. Sono molto indipendenti, spesso vengono dalla provincia, hanno fatto un passo importante, vivono da sole, hanno case che si sono comprate da sole, si pagano da sole, montano dei mobili Ikea da sole, costruiscono e col gigarite, insomma hanno proprio delle qualità che non ti aspetti e forse queste qualità di indipendenza, di autonomia, di pensiero critico anche e soprattutto di ambizioni creative cioè vengono qua per esserci, per avere un proprio spazio, creativo, forse tutto questo non rassicura il vecchio maschio, che non riesce più a competere, non riesce più a parlare, e allora piuttosto che imbarcarsi in avventure sentimentali e sessuali, preferisce distanziarsi, mantenere dei rapporti amichevoli, alla buona, insomma sprecare un sacco di energia. Non riguarda tutto il panorama dei trentenni, ovviamente mi sono un po' fissato, ho focalizzato l'attenzione su un certo particolare gruppo di persone che insomma, bene o male ho conosciuto. Il sentimento che lei loda alla fine del suo libro è l'inquietudine, che secondo lei è la molla che fa andare avanti il progresso, che spinge l'uomo. Sì, guardi, tante volte abbiamo rischiato di non farcela come specie, appunto. Possiamo fare l'elenco delle volte in cui sembravamo sconfitti, poi invece ce l'abbiamo fatta. E per questo non credo che abbiamo diritto alla felicità. Non so, c'è l'emendamento, il diritto alla felicità, bene, io lo abolirei. Non credo alla felicità. La felicità ci rende solitari, puri, e non ci fa voglia di metterci più in gioco. Credo invece all'inquietudine, che è un sentimento che ha a che fare con la curiosità, con la ricerca costante, con un senso di inappagatezza continuo e incessante, e che però grazie a questo riusciamo, cioè ci fa riuscire, ci fa indovinare un sentimento nuovo che altrimenti non riusciremo mai a prendere. Quindi io voterei appunto per un emendamento, diritto e dovere all'inquietudine costante. Grazie ad Antonio Pascale, autore delle Attenuanti sentimentali. Buona serata. Buonasera. La bicicletta dunque assume un valore simbolico nel libro di Pascale. L'autore ne parla a lungo, descrivendo bene la sindrome del neociclista che ha il terrore che la bici gli venga rubata. Ma la bicicletta potrebbe ispirare dei sentimenti diversi, per esempio quelli descritti puntualmente in un libro di Cesare Lombroso, lo studioso che collegava le fattezze fisiche e la propensione a delinquere. Questo è un saggio del 1900 che troviamo nel libro Il ciclismo nel delitto, è pubblicato dalla Vita Felice, 238 pagine, 13,50 €. Il curatore Matteo Noia nella introduzione ci ricorda il successo della bici negli ultimi anni. Nel 2011 ne sono state vendute 1.750.000, un successo al quale si è accompagnato anche negli anni scorsi un'impennata dei delitti effettuati con la bicicletta. E questo era proprio l'aspetto che preoccupava agli inizi del secolo scorso Lombroso, il quale notava arcignamente che ogni nuovo meccanismo che entri nei congegni della vita umana aumenta le cifre e le cause della delinquenza come della pazzia. Ma di tutte queste nuove invenzioni, fra cui l'elettricità e le ferrovie, la peggiore certamente per Lombroso era la bicicletta, anzi come la chiamava lui il biciclo. Perché? Proprio perché la bicicletta rende più facili i rapporti interpersonali e, secondo quello studioso, questa facilità contribuisce ad accrescere il numero dei delitti. E qui troviamo un catalogo dettagliato, in certi casi divertentissimo, dei delitti a due ruote, che si conclude però con un riconoscimento ai meriti del biciclo, per esempio quello dimostrato dal tandem realizzato in Ohio per trasportare i criminali che venivano legati al centro del mezzo tra due guardie carcerarie. Ma non c'è solo quello. Il biciclo, scrive Lombroso, ha raddoppiato le gioie più oneste della vita e le fonti del benessere. Insomma, alla fine del libro il bilancio che trae Lombroso della bicicletta è positivo, e così certamente per uno o due mali che il biciclo ci provoca saranno 10 i beni che ci recherà in dono. Il libro poi è completato da un breve saggio sulla storia della bicicletta e un capitolo sui rapporti assai profondi in certi casi tra letteratura e bicicletta, scrittori sul Sellino. Si intitola questo capitolo, che si apre ricordando Alfredo Oriani, che guarda caso morì il giorno prima di Lombroso, fino al nostro Sergio Zavoli. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. A proposito di sentimenti, parliamo adesso di un argomento che normalmente suscita i sentimenti più contrastanti, spesso di indifferenza, se non peggio, e cioè la politica. Ma lo facciamo con alcuni libri che ce la fanno considerare sotto luci diverse e talvolta perfino sotto una luce beffarda. Cominciamo con un politico italiano di lungo corso, Valdo Spini, socialista lombardiano d'origine, pluriparlamentare, sottosegretario, ministro, cofondatore di quello che all'inizio si chiamò DS, che ha scritto La buona politica, da Machiavelli alla Terza Repubblica, riflessioni di un socialista. È pubblicato da Marsilio, 176 pagine, 15 euro. Il libro prende spunto non solo dalla lunga esperienza politica dell'autore, ma anche dalle celebrazioni per il quinto centenario del Principe, di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, di Machiavelli. Infatti Machiavelli campeggia nella copertina del libro. Spini stesso è stato il presidente e responsabile del comitato cittadino che si è occupato di questo anniversario. In quell'occasione ha ripreso in mano Machiavelli, lo ha ristudiato e ne ha tratto un convincimento che egli spiega così. E naturalmente non si può cadere in un parallelo diretto e immediato con l'epoca di Machiavelli, non si può cadere in paragoni storici proponibili, scrive Spini, però certo anche oggi siamo in condizioni non solo economiche ma etiche e sociali dell'Italia particolarmente drammatiche, e aggiunge: l'impotenza della politica di fronte all'incapacità di interpretare i fenomeni del proprio tempo e di dar loro uno sbocco positivo e concreto è il sentimento che ha spinto Spini appunto a scrivere questo libro, nel quale troviamo alcune considerazioni iniziali legate proprio al Principe e poi invece un filo che percorre la carriera politica di Spini e che ci fa recuperare la memoria di quello che è successo in questi ultimi decenni, soprattutto nella fase finale della Prima Repubblica, per poi lasciare aperti molti interrogativi a partire dalla legge elettorale sull'intricato passaggio che stiamo attraversando. Una storia anche politica e non soltanto, e comunque molto anticonformista dell'Italia, è quello che ci presenta un grande giornalista, Giampaolo Pansa, nell'ultimo suo libro Sangue, Sesso, Soldi. Una controstoria d'Italia dal 1946 a oggi, pubblicato da Rizzoli, 450 pagine, 19 euro. Perché controstoria? Perché l'Italia è stata dominata da queste tre S che spiegano molte cose, secondo Pansa. Sangue, perché una volta usciti dalla guerra civile, scrive, abbiamo continuato a odiarci, sguazzando nel sangue. Sesso, praticato, esibito, narrato, è un'altra delle nostre bandiere, aggiunge Pansa. L'erotismo è diventato fonte di nevrosi incontrollabili, ha perso la normalità allegra di un tempo, produce ansia, stress, contrasti offerti al pubblico e infine soldi. E qui Pansa scrive: i soldi sono sempre stati un'ossessione, la voglia di arricchirsi in modo illecito ha intossicato la vita politica trascinandola nel baratro della criminalità. La sobrietà, una virtù che i partiti dovrebbero considerare il bene più prezioso, aggiunge, si dissolve ogni giorno sotto lo tsunami di una corruzione invincibile e volgare. Si comincia dunque subito dopo la guerra con questa patologia, ma questo libro, precisa Pansa, non è un bignami di storia patria, è piuttosto un racconto personale di questi 60 anni scanditi da un capitolo che porta ciascuno il titolo dell'anno al quale si riferisce, attraverso una serie di incontri, di memorie, di situazioni che Pansa ha attraversato dal punto di vista professionale, parlando anche di personaggi assolutamente minori e secondari che però sono quelli che ci possono dare il quadro della storia vera. Per esempio, a un certo punto Pansa ricorda le testimonianze che aiutano a capire quella che chiama la mostruosa epidemia dell'Eternit, rievocata attraverso una vicenda vera narrata da un amico della mia città, Casale Monferrato naturalmente. E ci sono poi tante altre interpretazioni controcorrente che non fanno temere a Pansa di essere considerato di destra. Questa prospettiva non lo spaventa, visto che la sinistra gli risulta, così scrive, marmorea e bugiarda. Per anni ha spacciato una lettura della storia italiana inquinata dal partito preso e seguita a spacciarla con la boria di chi si difende aggrappandosi al complesso dei migliori, ossia alla convinzione, conclude Pansa, di essere il meglio fico del bigoncio e di saperla più lunga di tutti. Per esempio, questo quadro di Pansa mette nella giusta luce lo straordinario contributo che Alcide De Gasperi diede al mantenimento e al consolidamento della libertà nel nostro paese. Ma sentiamo da questo libro come Pansa sintetizza un'esperienza che fa ancora palpitare tanti della mia generazione, il 68. Fu un tragico bluff il 68, per di più coperto e difeso da un'ondata di retorica mai vista prima in Italia. Eppure molti politici, molti intellettuali e molti giornalisti lo ritennero un miracolo. A sentir loro iniziava una stagione fantastica ed esaltante per la democrazia. Il 68 avrebbe cambiato tutto in meglio. La politica, l'economia, la società, la scuola, la cultura, la famiglia, i rapporti tra maschio e femmina, persino l'educazione dei bambini. A conti fatti non accadde nulla di tutto questo. L'unico vero frutto fu il terrorismo di sinistra, il mostro delle Brigate Rosse. Una documentazione molto intensa dei primissimi anni del dopoguerra, quelli che precedono gli anni dal quale parte Pansa, è il libro di memoria di un nobiluomo lombardo, Massimiliano Mainoni d'Intignano, che nei mesi della caduta del fascismo e nei mesi successivi era a Roma come capo della rappresentanza della Banca Commerciale. Dai suoi diari vengono pubblicati i brani relativi al periodo 43-45 nel libro Sopravvivere alle rovine, diario privato di un banchiere, pubblicato da Aragno, 680 pagine, 60 euro. Per il ruolo svolto e per le frequentazioni che aveva, Mainoni fu un testimone d'eccezione di quei mesi drammatici. Si parte per esempio ricordando il tentativo che aveva fatto Maria José, la principessa sposa del futuro re Umberto, di stabilire un contatto con gli alleati per rovesciare Mussolini, un tentativo col quale si intrecciano altri tentativi che provenivano anch'essi da ambienti di Casa Savoia. La Commerciale in quei mesi non fu soltanto una rappresentanza finanziaria, perché era a Roma uno dei centri dell'antifascismo attivo e tra l'altro la banca era aperta a molte culture, cercando di proteggere esponenti antifasciste appartenenti a varie famiglie politico. Mainoni era liberale, monarchico e cattolico e osserva il ruolo svolto dalla sua banca. E si parla per esempio in questo diario dei primi passi pubblici in politica di Ugo La Malfa, ma anche di Cuccia, sul quale il Mainoni non dà poi un gran giudizio. Il giovane Cuccia tende a darmi noia, scrive nel 1944, e naturalmente del padre nobile della Commerciale, e cioè Raffaele Mattioli. E dal suo osservatorio vengono anche dei giudizi spietati, per esempio parlando proprio degli antifascisti e in particolare del gruppo Italia Libera, lui liberale scrive così: «Bisogna che domani io dica a Mattioli il mio pensiero, che quest'Italia Libera non mi si confà. E la corsa al cadreghino, sfacciata e malgrado tutto antiquata. Sono tutti, salvo Siglienti e Calamandrei, uomini gonfiati, ambiziosi o partigiani. E soprattutto li sento plebei, nel senso piccolo borghese della parola. I comunisti hanno altra linea». Chissà cosa direbbe della politica di oggi Mainoni. Oppure dà un giudizio altrettanto severo su Milano, quando il duca Gallarati Scotti gli racconta che la borghesia milanese è antimonarchica, a lui che è monarchico, e che il comunicato del Gran Consiglio che aveva fatto fuori Mussolini il 25 luglio era stato letto a Milano come un espediente per mantenere il fascismo. Mainoni annota acidamente: Milano non ha nessun senso politico. Parlavo prima di Toni Beffardi con i quali accostarsi alla politica, allora vi segnalo un testo molto divertente del 1700. L'autore presunto è Melchior de Macañaz e il libro si intitola Testamento de España, da un manoscritto del XVIII secolo, è pubblicato da Liberi Libri, 106 pagine, 15 euro, curato e tradotto da Alessandra Battistelli. Si tratta di un pamphlet anonimo comparso probabilmente nel 1716, alcuni propendono per il 1756, ma insomma nel XVIII secolo, è attribuito ora appunto a questa avventurosa figura, vittima dell'Inquisizione perché era stato fautore di una politica più autorevole e indipendente della monarchia nei confronti della Chiesa e dell'Inquisizione. Addirittura l'autore aveva proposto, svolgendo un ruolo politico importante in quegli anni, che venisse diminuito il potere dei preti, eliminata l'immunità ecclesiastica e operata una riforma radicale del clero. Insomma, oggi lo definiremmo un riformatore, che scrive qui un libello sulle condizioni miserevoli del suo paese, sotto forma del testamento appunto della Spagna, un testamento surreale, drammaticamente sarcastico, perché sintetizza nelle proprie ultime volontà tutti i mali che affliggono quella nazione. Perciò curatori ed esecutori testamentari saranno nominati l'inganno, l'ambizione e l'ignoranza. Il primo comando che la Spagna dà come ultima volontà è quello che venga bandita dai miei regni la giustizia, affinché coloro che meritano il più rigoroso castigo vivano privi di inquietudine e possano ognuno campare secondo la legge che più gli aggrada, e così via, fino a toccare i punti nei quali continuiamo ancora a discutere e che sono al centro delle nostre polemiche, come dimostra per esempio quest'ultima disposizione che vi propongo. Ordino di esiliare il merito, in modo che saranno presi in considerazione quegli innumerevoli uomini che ne sono privi e che senza di esso saranno piazzati in posti di favore, che sarebbe invece più esatto dichiarare vacanti. Per ovviare a tali inconvenienti, metto al bando le università, il corpo militare, lo Stato, il clero. E infine, ciò costituirà un freno agli innovatori e ai perturbatori della pubblica tranquillità. E ci saranno due custodi alla porta, l'incapacità e la dissennatezza. Insomma, si tratta di un amaro documento sulla decadenza inesorabile dell'impero spagnolo, qui spiegata dal malgoverno in tutte le sue manifestazioni che afflisse quella grande nazione negli ultimi secoli del dominio borbonico. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il nuovo romanzo di Silvia Vallone, Marina Bellezza, pubblicato da Rizzoli, 520 pagine, 18,50 €. Un romanzo d'amore fra due ragazzi che ci invita a considerare i nostri stili di vita e l'esigenza di riappropriarci della storia da cui veniamo. Poi di Andrea Riccardi, uno dei principali studiosi della Chiesa, che è stato anche ministro recentemente nel governo Monti, ministro della cooperazione internazionale, vi segnalo il libro La sorpresa di Papa Francesco, Crisi e futuro della Chiesa, pubblicato da Mondadori, 210 pagine, 17 €. Poi vi ricordo che è in corso a Milano il Festival Milano Musica dedicato a Luciano Pestalozza, e questo è un festival musicale molto importante dedicato alla musica contemporanea e quest'anno in particolare al compositore Morton Feldman. E proprio Feldman ritroviamo nel libro che qua vi segnalo adesso, Electrosound di Giacomo Fronzi, che è uno studioso dell'Università del Salento. Il libro è sottotitolato Storia ed estetica della musica elettroacustica, pubblicata da EDT, 410 pagine, 25 €, e qui si parla di questo filone, appunto l'elettroacustica, che ha avuto un successo planetario grazie anche alla relazione con la tecnologia. Da questo punto di vista, scrive l'autore, la musica elettroacustica rappresenta una svolta radicale nella storia delle forme musicali. Siamo di fronte a una svolta perché mai fino ad allora vi era stata una così profonda commistione tra sviluppo tecnico, tecnologico e pratiche compositive, e soprattutto questa musica ha favorito l'abbattimento della diga che teneva separati due mondi, quello della musica classica e quello della musica leggera. E infatti in questo libro si parla non soltanto dei grandi musicisti contemporanei, Cage, Varese e altri, ma anche per esempio dei Pink Floyd. E di Morton Feldman sono raccolti alcuni scritti nel libro Pensieri verticali, pubblicato da Delphi, 306 pagine, 30 €, tradotto da Adriana Bottini. E a questo punto il confettino. Vi segnalo di Folco Quilici Nonno Leone, illustrato da Sara Benecino, 17 €, pubblicato da Mondadori. L'esploratore Quilici, nonno per anagrafe ma di grande passione e entusiasmo, racconta qui una storia di amicizia e di scoperta del futuro che è un messaggio di fiducia e di speranza. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.